Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, un cordiale saluto a tutti voi. Ci ritroviamo anche questo martedì attorno alla mensa della Parola di Dio. Stiamo continuando la nostra riflessione sul Vangelo di Marco, che stiamo leggendo dall'inizio alla fine. Siamo arrivati esattamente al capitolo 15. Ecco, penso che tutti noi arriviamo a sera stanchi dopo una giornata di lavoro e magari la stanchezza è ulteriormente aggravata dalla calura che ci accompagna in questi giorni. Chiediamo proprio allo Spirito di rendere feconda, al di là delle nostre stanchezze, l'ascolto della parola di Dio e soprattutto di far sì che questa parola possa consolare i nostri cuori, dare luce ai nostri smarrimenti e infondere discernimento nelle nostre decisioni. Ricordo come ogni volta quelli che sono gli obiettivi della nostra riflessione e della nostra trasmissione. Come dice bene il titolo, l'obiettivo della nostra riflessione sul Vangelo di Marco è quello di rendere la parola di Dio vicina alla nostra vita. Quindi, oltre ad una spiegazione che è attenta al testo, soprattutto alla sua traduzione, a volte una traduzione italiana del testo biblico non rende la pregnanza del significato che la lingua antica porta dentro di sé, oltre a questo cercheremo di passare dalla testa al cuore, cioè di far sì che la parola possa in qualche modo toccare la nostra vita quotidiana e darci delle luci attraverso le quali camminare. Nello stesso tempo, come sempre sottolineo, nella nostra trasmissione ci sono un pochino due polmoni che devono funzionare insieme perché la parola sprigioni tutta la sua ricchezza. Il primo è quello della spiegazione, il secondo però è quello delle vostre riflessioni, delle vostre domande. Oramai l'abbiamo provato più volte, le vostre domande sono altrettanto importanti rispetto alla riflessione che posso fare io, perché a volte offrono scorci inediti, invitano a perlustrare degli angoli che durante magari la riflessione non sono stati toccati. Quindi vi invito fin d'ora a partecipare con i vostri interventi nella seconda parte della nostra puntata. A quanti hanno la possibilità chiedo di prendere un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di aprirla proprio al capitolo 15 del Vangelo di Marco. La volta scorsa ci eravamo soffermati sulla pagina che descriveva la morte di Gesù. Se ricordate, la morte di Gesù nel Vangelo di Marco è scandita in archi orari ben precisi, cioè Marco racconta quello che succede alle 9 di mattino, quello che succede a mezzogiorno e quello che succede alle 3 del pomeriggio. Ciò che caratterizza il racconto del secondo Vangelo in genere è proprio quello di seguire una narrazione tripartita, per cui più volte la narrazione prosegue a un ritmo ternario, un ritmo di tre. Anche il racconto della Passione aveva visto in scena tre gruppi che avevano portato alla condanna a morte di Gesù. C'era il gruppo delle autorità religiose, il gruppo delle autorità pagane attorno alla figura di Pilato e infine la folla in mezzo alla quale possono essere un pochino raccolti anche i discepoli di Gesù. Quindi c'erano un pochino questi tre gruppi, queste tre aree di persone. All'indomani della morte di Gesù, quindi nel brano che insieme commenteremo oggi, torna la logica tripartita, nel senso che ci confronteremo con tre gruppi diversi che entrano in scena nel momento in cui Gesù muore. Prima però di leggere il racconto chiediamo proprio allo Spirito di accompagnare la nostra riflessione perché quanto condividiamo possa essere luminoso per ciascuno di noi. Ecco, ciascuno lo invochi su di me e su quanti ascoltano questa trasmissione. I versetti a cui ci dedicheremo sono i versetti che vanno dal 38 fino al 47 del capitolo 15. Lo divideremo, come anticipavo, in tre momenti che rispecchiano proprio i tre gruppi di protagonisti che entrano in scena dopo la morte di Gesù. Nel brano precedente, commentato la volta scorsa, dicevamo che ciò che caratterizza il racconto di Marco è la totale solitudine di Gesù. Sembra quasi che l'avvicinarsi alla morte della croce da parte di Gesù sia una sequenza di spogliazioni. Gesù viene prima spogliato della vicinanza dei discepoli e del consesso umano, viene poi spogliato della presenza della creazione con l'irrompere delle tenebre sulla scena e infine viene spogliato della presenza di Dio. Una spogliazione che culmina prima della morte nel noto grido Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi è un processo quasi di desertificazione attorno a Gesù, che resta solo, nudo, sul palcoscenico della storia. Nel momento in cui Gesù muore, la scena comincia a ripopolarsi. È come se nel Vangelo di Marco noi vedessimo il realizzarsi di quella parabola che Gesù aveva raccontato, non in questo Vangelo, la racconta nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, quando precisa che se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, se invece muore, produce molto frutto. Ecco, nel momento in cui Gesù muore sulla croce, se prima abbiamo assistito ad un processo di desertificazione, dopo la morte di Gesù vediamo che cominciano a spuntare sulla scena tutta una serie di figure positive. E le figure positive rispondono, si può dire, a quei tre gruppi umani che hanno portato alla condanna a morte di Gesù. Per cui entra in scena la figura del centurione, sarà il primo brano che commenteremo, entra in scena la figura di Giuseppe d'Arimatea, il secondo brano che commenteremo, e infine entrano in scena le donne che sono presenti un pochino in tutti i versetti che leggeremo questa sera. Ma cominciamo dalla prima scena, dal primo frutto che germoglia sul contesto arido del Calvario e che viene narrato nei versetti da 38 a 41. Ascoltiamo il brano. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Il centurione, che stava davanti a lui, vedendo che era spirato in quel modo, disse: «Veramente, quest'uomo era figlio di Dio». C'erano anche alcune donne che guardavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il piccolo e di Iorres e Salome. Queste, quando egli era in Galilea, lo avevano seguito e servito, e molte altre salite con lui a Gerusalemme. Ecco, perché dico che questa scena, la prima scena all'indomani della morte, rappresenta un germoglio sul contesto arido del Calvario, perché quello che viene descritto dall'Evangelista Marco ha tutti gli elementi di un contesto di speranza. Cominciamo dal primo segno. Nel momento in cui Gesù muore, ci viene detto che il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora, qui bisogna capire bene il testo antico, perché quando noi traduciamo il velo del Tempio, il nostro rischio è quello di intendere il Tempio come l'intero edificio sacro. Il testo greco invece utilizza per identificare il Tempio il sostantivo naos, che indica la parte sacra, il santuario del Tempio. Quindi questa tenda, questo velo che si squarcia in due, è il velo che separa l'area del Tempio a cui potevano accedere tutti i visitatori, sia ebrei che pagani, dall'area invece più sacra, quella che separava quindi l'area di tutti dall'area santa, dove potevano accedere solo i giudei. Quindi è la linea di demarcazione tra il credente e il non credente, tra chi può accedere a Dio e chi non può accedere a Dio. Nel momento in cui Gesù muore nudo sulla croce, portando su di sé il peccato di tutti gli uomini, questo velo si lacera. E il significato è forte, non c'è più una linea di demarcazione che separa i credenti dai non credenti agli occhi di Dio. La linea di demarcazione è stata distrutta da Gesù, che è venuto ad assumere su di sé la realtà dell'uomo, qualunque esso sia. Quindi creare delle linee di divisione tra pagani ed ebrei è un concetto ormai superato. In Gesù è possibile accedere a Dio, nessuno deve considerarsi estraneo a Lui, proprio perché il Cristo ha assunto su di sé tutta la condizione umana. Teniamo presente che quando l'Evangelista Marco scrive questa pagina, nella sua comunità c'è un dibattito molto acceso che traspare nelle pagine del Vangelo. E il dibattito riguarda proprio l'interrogativo se e come accogliere i pagani che si sono convertiti al cristianesimo. Vanno accolti come gli altri, devono avere un ruolo nella comunità come gli altri o devono essere considerati una sorta di credenti di serie B? Questo lo notiamo anche in altre pagine del Vangelo. Se ricordate, nelle famose due moltiplicazioni dei pani e nelle famose traversate del lago di Tiberiade, c'è sempre da parte dei discepoli, dei dodici, la fatica ad accogliere quelli che stanno dall'altra parte del lago. E tutte le volte che bisogna andare dalla parte del lago dove abitano le popolazioni pagane, succede qualcosa. Prima nasce una tempesta, poi non riescono ad andare di là perché c'è il vento contrario, poi c'è una crisi che apre al dibattito tra i discepoli e Gesù. Cioè ogni volta che si devono confrontare con il mondo pagano emergono delle resistenze. Ora, in modo definitivo, sul Calvario la morte di Gesù rompe totalmente queste resistenze. E la prova di questo è la professione di fede del centurione. Il centurione chi è? Il centurione è un pagano. E un pagano, uno considerato lontano, è il primo ad accedere al mistero di Cristo. È il primo uomo che nel terzo Vangelo dichiara Gesù per quello che è. Lo proclama veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Ora provate a tornare un attimo al primo capitolo del Vangelo di Marco. Noterete che il Vangelo di Marco si apre con una professione di fede. Rileggo, vado un attimo anch'io proprio al primo capitolo di Marco per leggervi il primo versetto che dice: inizio del Vangelo di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Notate, fin dall'inizio l'Evangelista fa la sua professione di fede: Gesù è il Cristo, cioè Messia, il Figlio di Dio. Ora, nessuno durante tutta la narrazione, durante 15 capitoli, è riuscito a ripetere questa espressione. Il primo che ripete questa espressione facendone una professione di fede è il centurione. Nella trama narrativa del Vangelo di Marco questa professione di fede ha un ruolo essenziale, perché è la prima volta che un uomo, non discepolo tra l'altro, riconosce Gesù per quello che è. Se poi il centurione avesse in mente il concetto di figliolanza divina che abbiamo in mente noi, questo è tutt'altro discorso, però a noi qui interessa la trama narrativa del Vangelo di Marco, che attribuisce a questa parola un significato certamente forte. Tra l'altro, non dimentichiamolo, durante il processo a Gesù, Gesù era stato proprio pizzicato, interrogato su questo punto, il sommo sacerdote gli aveva chiesto espressamente se lui era il figlio di Dio, senza tuttavia utilizzare la professione di fede in questo senso. E ora, guarda caso, risponde alla domanda del sommo sacerdote la professione di fede di un pagano, quasi a dire i pagani diventano i maestri, in questo caso, del potere religioso del tempo, nel momento in cui si aderisce a Gesù. In questa scena entrano anche le donne, c'erano anche alcune donne, leggevamo, che guardavano da lontano e vengono menzionate per nome, c'è Maria di Magdala, c'è un'altra Maria, madre di Giacomo il Piccolo e di Iosef, sull'identità di questa Maria gli esegeti si sono dibattuti, c'è chi ritiene che questa Maria sia una cugina della madre di Gesù, c'è chi ritiene che sia la madre di Gesù, in questo caso però bisognerebbe spiegare come mai non viene indicata come sua madre, in altri brani, in altri passaggi indicata espressamente come sua madre, o come mai non si è menzionata per prima, quindi sembra più probabile che sia un'altra figura diversamente dalla madre di Gesù, e Salome. Queste, quando egli era in Galilea, lo avevano seguito e servito, e molte altre. Ecco, la presenza di queste donne è significativa anch'essa nella narrazione di Marco, perché ci fa capire che Gesù non è rimasto solo come il lettore aveva pensato fino a questo momento, perché, vi dicevo, Marco aveva voluto sottolineare la totale solitudine di Gesù proprio per far capire fino a che punto lui era arrivato. Quindi, se è vero che i discepoli hanno disertato la scena, sulla scena sono però rimaste le discepole, e non tre, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, non solo queste tre, ma molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Salire a Gerusalemme non è solo fare un pellegrinaggio in occasione della festa di Pasqua. Salire con Gesù a Gerusalemme significa un attestato di fedeltà, perché Gesù sapeva che andare a Gerusalemme era per lui pericoloso. E per queste donne vengono utilizzati due verbi importantissimi che identificano la sequela. Lo hanno seguito e lo hanno servito. Acoluseo e diaconeo sono i due verbi greci che vengono utilizzati e che identificano normalmente i discepoli doc. Questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che nella comunità dei dodici, accanto ai dodici, c'erano anche delle donne. La prima comunità forte che si costruisce attorno a Gesù è una comunità fatta da uomini e da donne, che hanno entrambi un ruolo importante, anzi, le donne che accompagnano Gesù hanno un grado di fedeltà maggiore rispetto agli uomini, perché nel momento in cui tutti disertano, loro sono presenti sulla scena dando un forte attestato di fedeltà. Ecco, noi tra l'altro stiamo facendo questo rilievo, commentando questo, in un contesto liturgico molto adatto. Ieri abbiamo celebrato nella liturgia romana la festa di Santa Maria Maddalena, di Maria di Magdala, che è l'emblema un pochino del discepolato femminile. Oggi ricordiamo Santa Brigida di Svezia, una donna veramente forte, madre di 8 figli, che si dedica con forza, con il suo dono di profezia e discernimento all'annuncio del Vangelo, con la forza di contestare il re di Francia e il Papa, addirittura facendolo tornare da Avignone a Roma, una sorta di Caterina da Siena non italiana ma svedese, quindi una donna forte, quasi a riprova di quanto dicevo, fin dall'inizio il cristianesimo nasce con la forza del maschile e del femminile insieme. E la storia della Chiesa, se noi togliessimo i volti e le figure femminili, verrebbe privata di alcune pagine essenziali e decisive. Quindi è significativo che Marco, fin dall'inizio della sua narrazione, ponga l'accento su questo aspetto. Ecco, vi invito, mentre chiedo alla regia un breve stacco musicale per interiorizzare questi versetti, a rileggere questi versetti dal 38 al 41, prima di passare al secondo momento, al secondo frutto, al secondo germoglio che nasce dalla morte di Gesù. Quindi un breve stacco musicale e poi riprenderemo la nostra riflessione. Ecco, dopo quindi la prima scena che ha visto come protagonista e come germoglio che nasce dalla morte di Gesù il centurione, la seconda scena vede protagonista un membro autorevole del Sinedrio. Ascoltiamo i versetti, in questo caso sono i versetti dal 42 al 45. Essendo ormai vicina la sera, poiché era la vigilia, cioè il giorno prima del sabato, Giuseppe d'Arimatea, un membro autorevole del consiglio, che attendeva anche lui il regno di Dio, facendosi coraggio, si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto. Fatto chiamare il centurione, gli chiese se era morto da tempo e, informato dal centurione, concesse il cadavere a Giuseppe. Allora, la seconda scena, se nella prima il protagonista era il centurione circondato dalle donne che guardano da lontano, in questo secondo caso il protagonista è Giuseppe d'Arimatea che ha un dialogo con Pilato. Chi è Giuseppe d'Arimatea? Giuseppe d'Arimatea viene descritto come un membro autorevole del Consiglio, quindi Giuseppe d'Arimatea rappresenta un membro del Sinedrio. Il termine Consiglio è lo stesso termine che è stato utilizzato al capitolo 14 per descrivere i membri del Consiglio che hanno portato alla morte Gesù. E tra l'altro in quell'occasione era stato detto che tutti i membri del Consiglio si erano trovati d'accordo per mettere alla morte Gesù, tutti avevano in qualche modo votato contro di lui. In questo caso invece viene fatto capire che le posizioni all'interno del Sinedrio erano un pochino diversificate, quindi già si apre uno spiraglio. Quello che è significativo è che oltre a essere membro autorevole del Sinedrio ci viene detto che attende il regno di Dio, quindi è più che un membro del Sinedrio, è una persona che cerca la presenza di Dio su questa terra, e visto che Gesù entra in scena come colui che annuncia la vicinanza del regno di Dio, è menzionato, presentato in questo contesto, nel momento in cui si va a chiedere il cadavere di Gesù, e diventa un ulteriore segno, è una professione indiretta di fede. Tra l'altro l'Evangelista precisa che attendeva anche lui il regno di Dio, facendo capire che non è il solo. Quindi Giuseppe d'Arimatea apre uno spiraglio positivo, un germoglio di speranza, in un altro contesto, che è il contesto delle autorità giudaiche. Quindi notate, il centurione apre uno spiraglio di speranza nel contesto del mondo pagano, facendoci capire che non tutto il mondo pagano va colto in una chiave negativa, anzi il centurione è il primo germoglio di speranza che sgorga dalla morte di Gesù. Dall'altro canto Giuseppe d'Arimatea è il primo germoglio di speranza che nasce nel contesto delle ostilità delle autorità religiose ebraiche, quindi in qualche modo Giuseppe d'Arimatea riscatta la negatività con cui è stato presentato nel contesto della passione di Gesù il mondo ebraico. Anche il mondo ebraico ha una figura positiva da mettere in scena, altrettanto importante quanto quella del centurione. La forza di questa figura è presentata dal suo gesto. Si presenta a Pilato e domanda il corpo di Gesù. Ora, noi sappiamo che secondo la legge imperiale, che era diversa da quella giudaica, coloro che erano condannati alla morte in croce dovevano rimanere esposti sulla croce fino alla completa consumazione del cadavere. Dietro pagamento però i parenti potevano richiederne la salma. Noi abbiamo qui dei testi precisi sia di Cicerone che di Quintiliano, quindi autori pagani, che attestano quanto stiamo dicendo. Bene, Giuseppe d'Arimatea si presenta a Pilato chiedendo il corpo di Gesù. Ora, una richiesta del genere non solo lo presenta, rischia di presentarlo come un discepolo, ma rischia di presentarlo come uno che è talmente vicino a Gesù da essere quasi un suo familiare. Cosa porta Giuseppe d'Arimatea a chiedere e a fare questo atto di coraggio? Tra l'altro gli altri evangelisti sottolineano con forza che questo è un atto di coraggio, perché significa esporre se stesso, e Giuseppe d'Arimatea ha il coraggio di esporre se stesso, probabilmente perché i discepoli sono tutti usciti di scena. Una donna non può presentarsi a chiedere il cadavere di Gesù, il padre di Gesù è morto, chi resta a questo Gesù perché il suo corpo venga in qualche modo tutelato? Resta solo qualcuno di vicino, e colui che è vicino e che ha una certa autorità per influenzare Pilato non può altro che essere Giuseppe d'Arimatea. Ora, notiamo che la scena ripete in qualche modo quello che era avvenuto nel momento della condanna. Ricordate, al momento della condanna c'era stato un doppio faccia a faccia, c'era Pilato da un lato, le autorità religiose dall'altro, colui che ha sbloccato la situazione portando poi alla condanna di Gesù è un terzo, il terzo era Barabba. In questo caso avviene la stessa cosa, Pilato da un lato, l'autorità religiosa dall'altro, che è Giuseppe d'Arimatea, ci vuole un terzo che sblocchi la scena. Chi è il terzo che sblocca la scena? Guarda caso è il centurione. Il centurione che aveva fatto la sua professione di fede viene fatto chiamare, viene chiesto a lui se era morto da tempo e, informato dal centurione, viene concesso il cadavere a Giuseppe d'Arimatea. Notate quindi la mediazione del centurione in questo caso è necessaria. In entrambe le scene, sia durante il processo che qui, Pilato è esposto a un atto di meraviglia. Anche di là si era meravigliato di fronte alla richiesta del popolo e anche di fronte al silenzio di Gesù. Qui si meraviglia rispetto al fatto che Gesù sia già morto e quindi non sono dovuti intervenire in altri modi per accelerarne la morte. Quindi cosa dimostra la scena? Che non solo Giuseppe d'Arimatea è un segno positivo e che riscatta le autorità religiose che hanno portato alla condanna a morte di Gesù, ma addirittura il suo gesto diventa un motivo di riflessione per l'autorità pagana. Tra l'altro Giuseppe d'Arimatea risponde indirettamente alla domanda di Pilato. Pilato nel processo aveva chiesto a Gesù: tu sei il re dei giudei? E Gesù aveva risposto: lo dici tu, non lo sto dicendo io, lo dici tu. Dando una risposta quindi ambigua. Ora si presenta a Pilato un'autorità religiosa che attende il regno di Dio, ed è ovvio che se una persona attende il regno di Dio e chiede il cadavere di Gesù vuol dire che riconosce in Gesù colui che compie questa attesa, quindi lo sta riconoscendo come re. Avviene in altre parole quello che è successo prima. Il centurione, un pagano, con la sua professione di fede, aveva risposto alla domanda delle autorità religiose. Ora invece è un'autorità religiosa che con il suo gesto risponde alle domande dell'autorità politica. La trama narrativa di Marco, come vedete, è molto ben congeniata. Non sono testi che sono buttati giù a caso, come se fosse una memoria che uno scrive di punto in bianco, ma sono testi che condensano in poche righe tutta una serie di messaggi, tutta una serie di forza teologica e anche di messaggio spirituale carico di speranza. Un ultimo accenno merita il modo in cui viene descritto il corpo di Gesù, perché se nel testo antico è giusto tradurre che Giuseppe d'Arimatea si presentò per chiedere il corpo di Gesù, È altrettanto giusto tradurre il versetto 45 che, informato dal centurione, Pilato concesse non il corpo a Giuseppe, ma il cadavere a Giuseppe. Gesù è morto veramente. Il fatto di utilizzare il sostantivo greco ptoma, che indica il cadavere senza vita di una persona, sa dire che la morte di Gesù è stata qualcosa di reale. E qui si compie il mistero dell'incarnazione. La discesa che Gesù ha vissuto durante il suo ministero pubblico e che è iniziata nella grotta di Betlemme e ancor prima nel concepimento, assumendo la nostra condizione umana, raggiunge il suo culmine nel momento in cui assorbe anche l'esperienza della morte, e quindi il suo corpo diventa un cadavere, come proprio tutti gli esseri umani. Cristo ha vissuto la sua esperienza fino in fondo, assumendo la nostra condizione, e proprio per questo riscattandola dal di dentro, liberandoci dalla condizione umana dal di dentro. Tutto inizia nella grotta di Betlemme, tutto termina nella grotta ai piedi del Calvario, che è praticamente la grotta della sua sepoltura. Quindi vedete, in questa scena dove viene sottolineata più volte la morte di Gesù, c'è ovviamente dietro un altro messaggio importante per il lettore e per il credente, cioè Gesù ha vissuto tutta l'esperienza umana, non è che a un certo punto ha detto arrivo fin qui, ma questo no, e avendo vissuto tutta l'esperienza umana ha raggiunto gli uomini in ogni ambito dell'esperienza umana, anche nel momento più tragico come può essere quello della morte. Ecco, vi invito anche in questo caso a rileggere un attimo questi versetti dal 42 al 45, mentre chiedo alla regia un altro stacco musicale che ci aiuta un attimo a ripensare, a ripercorrere questi versetti e a capirne la portata che hanno per ciascuno di noi. Passeremo quindi agli ultimi due versetti che chiudono la scena e che vedono il terzo frutto di speranza che emerge subito dopo la morte di Gesù. Eccoci quindi al terzo frutto. Quindi abbiamo visto il primo germoglio è legato a un pagano, il secondo germoglio è legato a un'autorità religiosa, il terzo germoglio non può che essere legato alle figure che riscattano i discepoli, quindi alle donne. Torniamo al nostro racconto e ascoltiamo ciò che viene raccontato nei versetti 46-47. Giuseppe d'Arimatea, comprato un tessuto pregiato, calatolo giù dalla croce, lo avvolse nel tessuto pregiato, lo pose in un sepolcro scavato nella roccia e rotolò una pietra sull'ingresso del sepolcro. Maria di Magdala e Maria di Iosef osservavano dove veniva deposto. Ecco, noi abbiamo visto che la prima scena descriveva il centurione con le donne, la seconda scena descriveva Giuseppe d'Arimatea con Pilato, la terza scena descrive Giuseppe d'Arimatea e le donne. Tutti e due sono protagonisti dell'ultimo gesto. L'ultimo gesto, dopo aver ottenuto il permesso del corpo di Gesù, quindi la seconda scena, la prima scena si svolge al Calvario, la seconda nella casa di Pilato, la terza ritorniamo nuovamente al Calvario. Quindi Giuseppe d'Arimatea cala il cadavere di Gesù dalla croce, lo avvolge in un tessuto pregiato, il termine utilizzato è il termine sindon, da cui appunto la nostra sindone, è lo stesso termine che viene utilizzato al versetto 14-51 per indicare quel famoso giovane che fugge via nudo nel momento dell'arresto di Gesù, e Gesù viene non coperto dalla sindone ma proprio avvolto, circondato da questa sindone. Poi, questo è importante per capire poi il racconto della risurrezione, lo avvolse nel tessuto pregiato, lo pose in un sepolcro scavato nella roccia. Ora anche qui abbiamo la documentazione archeologica attestata del primo secolo che attesta la presenza di questi sepolcri, tra l'altro proprio ai piedi del Calvario. Il Calvario era una cava di marmo o di pietra, una cava di pietra abbandonata, e lì dove erano state fatte, dove era stata estratta la pietra, erano stati ricavati tutta una serie di sepolcri, appartenevano soprattutto a persone agiate, erano sepolcri fuori dalla città, quindi in luoghi che non rendevano impura la vicinanza della città santa, e rotolò una pietra all'ingresso del sepolcro. Notiamo dalla descrizione, anche qui, è come se Gesù venisse sepolto tre volte, perché dopo che viene calato e torna il modo, lo stile narrativo di Marco, che procede per seguendo l'elemento ternario, la prima volta Gesù viene avvolto in una sindone, in un lenzuolo, quindi è un po' la prima sepoltura, la seconda volta viene calato nel sepolcro scavato nella roccia e quindi scende nelle viscere, si può dire, della terra, la terza volta viene sigillato all'interno di questo sepolcro. Sono tre gesti che indicano proprio anche qua la precisa volontà di sottolineare la realtà della sua morte e per conseguenza di sottolineare ancora di più la forza e la veridicità poi della sua risurrezione. In questo contesto torna la presenza delle donne e qua entrano in scena due figure, Maria di Magdala e Maria di Iosef, che osservavano dove veniva deposto. Anche qua, chi sono queste due donne? Torna a essere molto preziosa la presenza di Maria di Magdala, che viene menzionata per prima come l'eccellenza dei discepoli, mentre questa Maria di Iosef crea ancora dibattito all'interno degli esegeti, perché c'è chi dice è la madre di Gesù, Iosef starebbe per Giuseppe. Del resto non ci sono elementi che ci permettono di dire Maria madre di Iosef o Maria moglie di Iosef, perché il testo greco dice Maria di Iosef, potrebbe essere la madre, la moglie, la sorella. Ecco perché alcuni la identificano con la madre di Gesù. Altri invece dicono ma no, è la stessa che è stata menzionata prima, che è collegata anche a Giacomo il Piccolo e quindi è la cugina di Maria. La questione sicuramente dal nostro punto di vista va più in questa seconda lettura, però dobbiamo mantenere il beneficio di inventario, quindi la questione resta sostanzialmente aperta. Il loro ruolo in questa scena delude un pochino, perché praticamente queste donne hanno vissuto accanto a Gesù, l'hanno accompagnato fino a Gerusalemme, lo hanno servito e seguito, ma nel momento chiave della messa a morte di Gesù e della sua sepoltura sono figure paradossalmente statiche. È vero che sono presenti sulla scena riscattando un'assenza, che è l'assenza dei discepoli, però sono figure statiche. Quindi da un lato l'Evangelista Marco sembra metterne in rilievo il ruolo positivo, hanno resistito più dei discepoli. Dall'altro però annuncia già quello che succederà nella pagina successiva. Queste donne, come tutti i discepoli, dovranno passare da un'esperienza fallimentare, dovranno in qualche modo abbandonare anche loro la scena per poi tornare su di essa guidate dalla forza della grazia di Dio. Detto in altri termini, il concetto di discepolato che ha l'Evangelista Marco è un concetto di discepolato possibile solo a chi sperimenta fino in fondo la gratuità dell'amore di Dio. E questa è un'esperienza che uno non è che può spiegare a parole, è un'esperienza che uno deve vivere e solo nel momento in cui la vive può mettere in moto quel discepolato necessario. Tutti paradossalmente, lo vedremo e lo commenteremo la volta prossima, tutti i discepoli, così come vengono presentati dall'Evangelista Marco, fanno l'esperienza del fallimento. E questa presenza statica delle donne al momento della sepoltura di Gesù prelude al loro crollo. Perché queste donne non entrano in scena come protagoniste, come invece fanno Giuseppe d'Arimatea e il centurione, che testimoniano a favore di Gesù, hanno il coraggio di compiere dei gesti concreti, reali, veri. Il centurione testimoniando davanti a Pilato, e pronunciando delle parole che altri hanno potuto sentire sulla scena del Calvario, e Giuseppe d'Arimatea presentandosi per chiedere il cadavere di Gesù e poi compiendo tutti quei gesti che portano alla sua sepoltura. Ecco, cari ascoltatori, care ascoltatrici, questi sono i tre germogli che fioriscono all'indomani della morte di Gesù, e sono tutti e tre delle figure che riscattano i tre grandi gruppi negativi che avevano accompagnato la passione. Quindi il centurione riscatta il mondo pagano, Giuseppe d'Arimatea riscatta il mondo ebraico, le donne riscattano i discepoli e le folle. In altre parole, queste tre figure, questi tre soggetti ci dicono già la forza salvifica della morte di Gesù. La morte di Gesù ha già portato salvezza nei tre gruppi sociali per eccellenza che caratterizzano il primo secolo: il mondo romano, pagano, il mondo ebraico con le sue autorità e il mondo dei discepoli, delle folle, di tutti gli altri, gli uomini e le donne comuni. Tutti sono raggiunti dal primo germoglio di grazia, e questo già prelude a quella forza di vita che è racchiusa in questo cadavere che sembra essere sepolto tre volte, avvolto nella sindone, messo nel sepolcro di pietra, sigillato con la grande pietra d'ingresso. Niente riesce a sigillare la forza di vita del Figlio di Dio. Presto questa forza di vita si manifesterà in tutta la sua potenza nella scena della risurrezione. Ora, cari ascoltatori, è il vostro turno, il turno delle vostre riflessioni, il turno delle vostre domande. Lasciamo quindi uno stacco musicale, questa volta più lungo, in modo che ciascuno di voi ha possibilità di contattare la redazione di Radio Maria e di prenotarsi per le domande. Vi ringrazio fin d'ora per i vostri interventi e resto in attesa dei vostri quesiti. Pronto? Con chi parlo? Io mi chiamo Valeria, chiamo da Trieste, sono un'ascoltatrice evangelica, però mi piacciono queste catechesi qua. E volevo dire, da quello che vediamo dalla scrittura, oltre che ai testimoni che lei ci ha detto molto bene, c'era anche Nicodemo, no? Che partecipò, che possiamo pensare che si identificò anche lui portando gli aromi, no? Cioè, lui in un primo tempo aveva parlato con Gesù, come sappiamo, da Giovanni 3, e poi era stato un discepolo segreto, possiamo dire, credo, almeno di poter. E poi però si identificò portando gli aromi anche lui, no? E in buona misura. Questa era la domanda, e l'ascolto per radio, e che il Signore la benedica. Grazie. Allora, ringraziamo la nostra Valeria di Trieste, questa città di confine, molto bella tra l'altro, ho avuto modo di visitarla poche settimane fa. Cara Valeria, è molto vero, ci sono altre figure che circondano la morte di Gesù, nel momento in cui noi facciamo una lettura sui quattro Vangeli. Ora, in genere quando faccio il commento, proprio perché voglio spiegare la narrazione tipica di ogni singolo evangelista, allora nel caso di Marco mi soffermo sui personaggi che sono in scena con lui. Se noi aprissimo la pagina del quarto Vangelo che lei ha aperto, ovviamente ci sono altre figure sulla scena. Nel quarto Vangelo, ad esempio, è chiaramente evidente che è presente la madre di Gesù. Un'altra figura essenziale nel quarto Vangelo è il discepolo amato, che testimonia tutto quello che avviene ai piedi della croce. E poi c'è la figura, oltre che di Giuseppe d'Arimatea, di Nicodemo. Ecco, è una figura tra l'altro molto bella, molto emblematica, perché è colui che si presentava all'inizio da Gesù di notte, alla fine non ha paura di essere presente al Calvario, quindi di venire alla luce del sole e di compiere dei gesti che in qualche modo erano anche gesti compromettenti. Quindi grazie Valeria per la tua sottolineatura, tieni però presente che nel Vangelo di Marco Nicodemo non c'è, come sembra non esserci, come non c'è il discepolo amato, come non c'è probabilmente la madre di Gesù. Questo non perché per Marco queste figure non siano importanti, ma perché nella trama narrativa dell'evangelista ci sono dei precisi messaggi che lui vuole lanciare, e uno di questi precisi messaggi è quello che abbiamo cercato di illustrare. La morte di Gesù ha una forza di vita così grande che arriva a portare speranza in tutti i gruppi sociali presenti al tempo, quindi gruppo sociale dei pagani, delle autorità pagane, delle autorità giudaiche e della gente comune. Tutti e tre sono raggiunti dall'amore di Dio. È un modo di narrare diverso, che ha ovviamente sullo sfondo un preciso messaggio da comunicare, che è diverso dal messaggio che vuole comunicare il quarto Vangelo. Comunque, molte grazie davvero per il suo intervento. Pronto? Sì. Buongiorno, io mi chiamo Anna D'Albenga. Una domanda che mi faccio da tanto tempo: dato l'attenzione che facevano gli ebrei antichi alla purità rituale, come c'è tante volte nei Vangeli, come mai ci sono dei sepolcri di ricchi vicino al posto della crocifissione? Sì. Cioè, a me sembra una cosa un po' strana, è strana o è normale? Grazie Anna, grazie. Effettivamente la domanda è preziosa. Allora, i sepolcri, prima di tutto, che sono sulla zona della crocifissione, erano praticamente dei sepolcri che erano, come dire, è vero che il posto è impuro, ma era il posto impuro era il posto delle esecuzioni. Anche il cimitero era considerato un posto impuro, proprio perché laddove c'è decomposizione di un corpo, quindi la trasformazione del corpo, il cadavere è considerato impuro. Quello che era custodito in modo un po' particolare era la preparazione del sepolcro. Nel caso di Gesù viene precisato che si tratta di un sepolcro che non era ancora stato utilizzato da nessuno, questo soprattutto negli altri Vangeli, per dare quasi un senso di sacralità alla scena, ma è evidente che Gesù muore e viene portato, sepolto in un luogo impuro. Gesù abita l'impurità, e una degli elementi che vengono in un certo senso riscattati sia durante il ministero pubblico sia durante la sua morte è proprio questo fatto. Gesù rompe tutte le regole di purità e riesce a a vincere con la sua potenza di vita anche nel contesto impuro di un luogo di esecuzioni pubbliche come poteva essere il Calvario e in un luogo come poteva essere quello del sepolcro, della sepoltura. Teniamo presente anche il fatto che le esecuzioni avvenivano fuori dalla città, e questa è una sottolineatura che viene segnalata dagli evangelisti. Gesù viene ucciso fuori della città. Tra l'altro questo dà anche particolare rilievo ai gesti che vengono compiuti da un membro autorevole del Sinedrio. Pensate, se un membro autorevole del Sinedrio il giorno della Parasceve, quindi la Parasceve, la vigilia della Pasqua, quindi in occasione di una festività così importante dove era importantissimo avere la purità rituale per celebrare la festa, se un membro autorevole del Sinedrio va a richiedere quel cadavere, non è solo un gesto di pietà, come dicono alcuni, perché è quasi un riconoscere in quella persona qualcuno di più importante della Pasqua, del rito pasquale da celebrare. Chiedendo il cadavere di Gesù, Giuseppe d'Arimatea si rendeva impuro agli occhi degli altri membri del Sinedrio e dava un messaggio che era un messaggio indiretto di pari importanza a quello del centurione ai piedi della croce, perché riconosceva in Gesù la vera Pasqua. qui a mio avviso, però ecco, prendetela con il beneficio dell'inventario personale, cioè dell'interpretazione personale, a mio avviso Marco ha dentro di sé, è impregnato della teologia paolina, si vede che Marco è stato un discepolo dell'apostolo Paolo, un discepolo non facile, con un maestro non facile, che però ecco, ha portato dentro, porta dentro di sé diversi elementi della teologia paolina, tra cui quella di riconoscere la centralità del crocifisso e la forza della croce, e dall'altra riconoscere in Cristo nostra Pasqua, il Cristo nostra Pasqua è stato immolato, noi non siamo più schiavi ma diventiamo liberi. E poi ecco tutti gli elementi che caratterizzano la figura del discepolo in Paolo la ritroviamo in Marco. Quindi grazie Anna per questo tuo interrogativo, perché ci ha permesso di toccare questi aspetti che danno ancora più risalto al gesto di Giuseppe d'Arimatea. Grazie. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sono Rita da Comacchio, Emilia Romagna. Ecco, e facevo una riflessione, cioè sentendo voi spiegare così bene i Vangeli e fare tutti quei collegamenti, sempre per la comprensione, tra l'altro molto, molto giusti, sentendoli noi all'orecchio siamo meravigliati, al tempo stesso impariamo, eccetera. Mi chiedevo, naturalmente ai tempi subito dopo la morte di Gesù, eccetera, i primi cristiani, chissà se capivano l'importanza di queste cose, dei personaggi, eccetera, e al tempo stesso, a che punto siamo, siccome comprendiamo sempre più, a che punto siamo secondo, sotto gli occhi di Dio, insomma, nel cammino così della sua umanità, della, a che maturazione siamo, capisce? Non so sì, se sì, riesco sì, a spiegarmi. Abbiamo capito tutto, oppure c'è ancora, naturalmente so che c'è i misteri, però così mi viene questa riflessione, ecco. Grazie Rita, è una bellissima domanda anche la sua dall'Emilia Romagna. Vedete un po' come anche nelle telefonate sono le donne in questo caso che ci aiutano ad approfondire, proprio come la pagina che abbiamo ascoltato, dopo Valeria e Anna abbiamo avuto Rita. Allora, le dico una cosa Rita, vede, stando ad alcuni studiosi, e tra questi c'è l'autore di un commento stupendo al Vangelo di Marco, che tra l'altro è stato anche mio professore, padre Benoît Standaert, un monaco benedettino che adesso vive anche lunghe esperienze di eremitaggio, questo monaco benedettino ritiene e ha dimostrato con lungo percorso di studi che il Vangelo di Marco era un Vangelo che veniva letto nella notte di Pasqua. Come gli ebrei nella notte di Pasqua rileggono, ripercorrono l'esperienza della fuga dall'Egitto con tutto il percorso vissuto dagli ebrei, i cristiani, la comunità cristiana nella notte di Pasqua leggeva, secondo questo studioso, leggeva il Vangelo di Marco, che era una sorta di catechesi che preparava i catecumeni a ricevere il battesimo. Ora, tutto quello che io vi spiego, per una persona che viveva nel primo secolo, per dire tutto quello che io stasera vi ho detto su Giuseppe d'Arimatea, su queste cose legate alla purità, all'impurità, al significato che poteva avere un'espressione detta dal centurione, nel contesto del primo secolo era cultura comune, perché era una società dove certe dinamiche erano vissute e quindi uno sapeva leggere il retroscena di quel mondo. È ovvio che uno che vive 20 anni dopo in un contesto sociale totalmente diverso c'è bisogno di una mediazione per riuscire a capire quelle cose. È come se io andassi in Africa e mi trovassi a vivere alcune tradizioni, alcuni riti locali che vengono celebrati nel posto, io ho bisogno di una mediazione per capirle, altrimenti dico ma questi sono matti nel loro modo di celebrare. uno del posto invece li vive tranquillamente perché fanno parte della sua cultura, fanno parte della sua tradizione. E lo stesso avviene oggi. Quindi quello che è importante è avere uno strumento di mediazione. E grazie a Dio c'è chi studia per questo, può essere il nostro caso, c'è chi compie questo servizio e Radio Maria in tal senso compie un ottimo servizio in questo senso, ci sono i libri, io in tal senso sono anche editore e quindi ho il compito di mediare attraverso i libri, attraverso altre modalità multimediali, il contenuto, le pagine delle scritture, attraverso delle edizioni della Bibbia commentate, cioè sono tutti strumenti che permettono di accedere al significato che sta dietro alcuni gesti, alcune espressioni. Poi lei mi dice, ma abbiamo esaurito oggi come oggi nel 2013, possiamo dire di aver compreso almeno, non so, l'80% del testo? Ecco, quale devo rispondere? No. Perché? Perché la parola di Dio è sempre viva e quindi è una parola che si rinnova. Se io alla fine del commento del Vangelo di Marco dovessi ritornare a ripercorrere in lezione continua il Vangelo di Marco dall'inizio alla fine, il mio commento sarebbe diverso, sia perché non leggo quello che ho scritto, ma soprattutto perché in questi 3 anni in cui abbiamo commentato il Vangelo di Marco insieme sono cresciuto anch'io. Io ho acquisito delle conoscenze in più grazie ad ulteriori approfondimenti, grazie alle vostre domande, grazie ai vostri interventi, alle vostre provocazioni. Sono cresciuto in esperienza e anche chi mi ascolta ha vissuto esperienze diverse, cioè è la nostra vita, la parola di Dio assume luci diverse in base anche al momento in cui noi ci troviamo. Un Midrash dice che ai piedi del Sinai, quando vennero pronunciati i 10 comandamenti, le 10 parole, vennero intese dal popolo che era ai piedi del Sinai in tanti modi diversi quanta era la gente presente. E questo vale per la parola di Dio. Voi in queste trasmissioni ricevete la spiegazione da parte di una persona che viene poi arricchita dalle domande degli ascoltatori. Abbiamo esaurito la spiegazione? Assolutamente no, ognuno di noi è una piccola luce che però deve permettere alla parola di Dio di essere un grande fuoco. Con la piccola luce non ci si scalda, occorre che le piccole luci vengano messe insieme per scaldare tutti. Quindi la mia spiegazione unita alla sua domanda, signora Rita, ha contribuito, ma c'è ancora tanto da scoprire, il tesoro della parola di Dio è un pozzo senza fondo. A che punto siamo, lei infine mi chiede? Siamo a buon punto, perché grazie a Dio, con il Concilio Vaticano II, di cui celebriamo il 50°, lo scrigno della scrittura è stato finalmente aperto. Nel mondo cattolico, non nel mondo protestante, ma nel mondo cattolico purtroppo sì, il tesoro della Bibbia è stato a lungo chiuso. Grazie a Dio c'erano dei profeti che ogni tanto lo aprivano, che ogni tanto provocavano dicendo guardate la parola di Dio è importante, questo prima del concilio, preparando i lavori conciliari, penso anche solo al mio fondatore, a Don Alberione, mandava, pensate, i paolini e le paoline di casa in casa a portare Bibbie e Vangeli e in alcuni paesi e villaggi dove le nostre suore arrivavano, a quell'epoca era impensabile mandare in giro delle suore. Tra l'altro le mandava in giro chi col carretto, chi col mulo, chi con i mezzi pubblici, a due le mandava. In alcuni paesi venivano cacciate via sotto il grido protestanti, come se facessero un'azione indegna, come i protestanti, perché i protestanti portavano la parola di Dio, pensate, erano considerati indegni perché portavano la parola di Dio. Grazie a Dio lo Spirito alla fine, siamo stati un po' duri, però alla fine ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto capire che qui c'era uno scrigno, un tesoro. E oggi cosa faremmo senza il tesoro della parola e dell'Eucaristia? Non faremo niente. Ecco, a che punto siamo quindi? Siamo a buon punto perché grazie a Dio abbiamo riaperto questo scrigno e lo possiamo condividere così con tanta semplicità come stiamo facendo in questo momento, arricchita Rita da Giacomo, da Don Giacomo e Don Giacomo dalla domanda di Rita. Quindi grazie di cuore per il suo interrogativo. Pronto? Buonasera padre, sono Massimo, chiamo da Napoli. Volevo, volevo farle una domanda ma anche una piccola riflessione. Vorrei partire da una riflessione appunto con la sorella che appena poco fa vi ha fatto una telefonata, e io sono della risposta e dell'opinione che alla domanda come facevano agli inizi i primi cristiani, beh, comunque noi non dobbiamo trascurare la testimonianza dei 12 apostoli, non dobbiamo trascurare che Marco, prima Paolo, poi è stato anche un po', come dire, ci hanno insegnato la penna di Pietro, e poi i Vangeli sono uno scritto di un'esperienza di fede. Non è che abbiamo avuto dei cronisti che durante la vita di Gesù hanno preso appunti, ma è una testimonianza di una fede vissuta, tutto nascendo dal quello che viene definito il sepolcro vuoto, cioè tutto è stato chiarito dopo la risurrezione di Gesù Cristo. E poi non dimentichiamo l'evento della Pentecoste, quando con la discesa dello Spirito Santo appunto i 12 apostoli sono stati poi illuminati su tutto quello che poi hanno man mano sia loro sia i loro discepoli, tra cui Marco, a riferire tutto il significato e tutta l'esperienza che hanno vissuto vicino al Signore. È ovvio che molte cose si sono sviluppate anche dopo, e quindi Marco scrive una sua esperienza vissuta con uno degli apostoli diretti, non so se ho sbagliato nella mia esposizione. Poi la cosa che mi sorprende, se adesso lei mi può illuminare, è proprio questo, il fatto che lui abbia strutturato questa parte di questo capitolo che lei ci ha spiegato, con la presenza del centurione, giustamente, mi riallacciava anche l'esperienza che aveva fatto Pietro di un centurione convertito. Non so se a questo punto c'è anche un'esperienza di Marco su quell'avvenimento. E la domanda era questa: poteva essere anche lui, come dire, aver preso spunto dalla discesa dello Spirito Santo anche sui pagani, cioè vedere poi il germoglio che lei diceva fruttare poi in senso concreto? Questa è la mia domanda, l'ascolto per radio, padre. Grazie mille Massimo. Massimo in pochi minuti ci ha fatto proprio un condensato di teologia del Nuovo Testamento, ci ha aiutato a capire come e cosa sta dietro la redazione dei Vangeli, quindi niente da dire, niente da commentare rispetto alla prima parte, grazie a Massimo per il tuo intervento, mentre sulla seconda parte, sul quesito, riprendo una cosa importante, in questo senso la domanda è molto opportuna, no? Quando l'Evangelista scrive, ovviamente non siamo a ridosso immediato degli eventi. Marco non è che scrive Gesù muore attorno al 30 dopo Cristo, punto di domanda, non è che Marco scrive il 31 dopo Cristo, no, e nemmeno il 35, nemmeno il 40, nemmeno il 45, scrive un pochino dopo. Nel frattempo la comunità cristiana ha avuto tutto un suo percorso di vita, in questo percorso ha incontrato alcune difficoltà, e la prima difficoltà che noi riusciamo a recepire dalla narrazione che fa Luca negli Atti degli Apostoli e anche dalle lettere di Paolo, che alcune delle quali vengono scritte più o meno nello stesso periodo in cui viene redatto il Vangelo di Marco, riportano le fatiche della prima comunità, e le fatiche della prima comunità sono state quelle dell'apertura, non c'è niente da fare. La prima comunità è composta essenzialmente da persone che provengono dal giudaismo, che si rendono conto però che lo Spirito le spinge oltre, le spinge prima ad aprirsi ai samaritani, poi dai samaritani ad aprirsi ai pagani, ma questo non secondo un piano di lavoro che uno ha descritto a tavolino, si sono trovati in mezzo a queste situazioni, e gli Atti degli Apostoli lo descrivono in modo molto bello, molto significativo, cioè se voi andate a vedere l'apertura ai samaritani, l'apertura ai pagani, non è frutto di un apostolo, non è frutto di uno dei 12, è sempre frutto di una spinta che viene dall'esterno, e dopo i 12 arrivano a ratificare. Prima di Cornelio il centurione che viene incontrato da Pietro a Cesarea, c'è il famoso incontro tra Filippo e l'eunuco di Candace, che è un pagano, e questo è il primo pagano che entra in scena e che apre la comunità cristiana ad un mondo di fronte al quale non è che si era preparati a riceverlo. Persino Pietro, dopo essere stato a Cesarea ed aver accolto Cornelio battezzando lui e la sua famiglia, quando ritorna a Gerusalemme dai suoi, e mica gli battono le mani a Gerusalemme, brontolano, lo aggrediscono. E sappiamo tutte le questioni che poi porteranno alla famosa assemblea di Gerusalemme, narrata al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, alle famose discussioni sullo stare alla stessa mensa tra credenti provenienti dal giudaismo e credenti provenienti dal paganesimo. Cioè, la comunità cristiana è una famiglia che si è allargata adagio adagio, ma che ha fatto fatica all'inizio a inglobare persone nuove. Ora, quando Marco scrive, alle spalle c'ha tutta questa storia, c'ha tutte queste esperienze, ed è chiaro che quando lui presenta ai piedi della croce il centurione, Giuseppe d'Arimatea e le donne, sta presentando tre gruppi che sono le tre anime della comunità cristiana: il mondo pagano, il mondo ebraico e la realtà femminile, le donne, le discepole. Queste tre realtà non è che si amalgamavano così bene. Andate del resto a vedere gli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli, quando nel primo capitolo descrivono la prima comunità che attende lo Spirito Santo, la prima comunità che attende lo Spirito Santo è composta dagli 11 che vengono menzionati per nome, uno dopo l'altro. Poi vengono menzionati i parenti di Gesù e poi vengono menzionate le donne. Anche qua sono tre gruppi che indicano la comunità cristiana delle origini. Ma non sono solo tre gruppi buttati lì così, sono tre gruppi che fanno fatica ad andare d'accordo tra di loro. E la riprova di questo viene anche nei testi apocrifi più antichi. I testi apocrifi più antichi sono quelli che per diverso motivo non sono stati inseriti nel canone delle scritture, o perché contengono contenuti eretici, o perché troppo tardivi, o perché non usati nella liturgia. Ora, nei testi apocrifi più antichi emergono molto bene le tensioni interne alla comunità cristiana, che sono poi anche quelle attestate nelle lettere di Paolo. Notiamo nelle lettere di Paolo che nella prima comunità cristiana ci sono tensioni, proprio perché c'è un'identità che è in fase di formazione, che ha bisogno di ricomporsi. Non è facile, del resto, rileggere totalmente il giudaismo, ci sono anche le persecuzioni dietro, non era facile gestire il tutto, ma lo Spirito ha guidato ed ha potuto guidare anche grazie alla testimonianza degli evangelisti. Prendiamo i Vangeli, i Vangeli sinottici, Matteo, Luca e Marco. È evidente che questi tre Vangeli si rivolgono a tre pubblici diversi. Il Vangelo di Matteo è un pubblico ebraico, il Vangelo di Luca è un pubblico pagano. Il Vangelo di Marco ha persone, vi dicevo, che si preparavano ad entrare nell'esperienza cristiana. Erano le tre anime della comunità cristiana delle origini. Lo Spirito non ha lasciato mancare la parola giusta per il destinatario giusto. Lo stesso messaggio aveva bisogno di essere declinato in modo diverso a seconda dell'interlocutore. Quindi grazie di cuore Massimo, perché da Napoli hai gettato proprio una pietra su un elemento fondamentale della riflessione. Pronto? Pronto, buonasera, Don Perego? Sono io. Buonasera, sono Sandro dalla strada, mi sono fermato un attimino. Senta, io volevo chiederle una cosa che non viene quasi mai discussa. Se il contrasto che è riportato nella lettera ai Romani tra i forti e i deboli, cioè tra quelli che non mangiano carne e quelli che mangiano carne, è in realtà un contrasto tra due comunità di cristiani, una appartenente alla comunità di Pietro che era già a Roma e Paolo stesso che conosce per la prima volta questa comunità appena lui arriva a Roma. Lo dico perché nelle omelie pseudo-clementine Pietro stesso, per bocca di Clemente V, sembra il terzo papa, insomma, quello che era il discepolo di Pietro, e Pietro stesso dice che lui è vegetariano, che lui mangia solo olive, mangia solo pane, e questo poi è ripreso da San Girolamo, c'è tutta una tradizione vegetariana. Allora io mi chiedo se quella comunità che non vuole mangiare carne si scontra con Paolo, fino al punto che poi Paolo ha anche lui i suoi dubbi sulla sua stessa posizione, perché alla fine dice, per non creare insomma tutti questi problemi, sono disposto anch'io a rinunciare a questa abitudine, non sia un contrasto tra la comunità di Pietro, vegetariana a Roma, e Paolo. Grazie. Grazie Sandro. Sandro, vedete, si è fermato addirittura nel suo viaggio per porre questa domanda e per contribuire alla nostra trasmissione, quindi grazie di cuore per questo tuo gesto. Aiutiamo un po' gli ascoltatori a capire la tua domanda, perché qualcuno forse si è perso nel quesito che tu hai fatto, perché citi dei testi appunto apocrifi che vanno un attimo introdotti. Allora, partiamo prima dalla domanda. La domanda di Sandro è: ma la questione del dibattito riguardo alla mensa, di mangiare o non mangiare le carni, come si pone nel contesto della prima comunità cristiana? Come la dobbiamo capire? E poi arrivo alle lettere pseudo-clementine. Allora, la questione del cibo è una questione che ricorre più volte nelle lettere di Paolo, ricorre nella corrispondenza con i Corinzi, ricorre nella corrispondenza con i Galati e anche nella corrispondenza con i Romani. Questo perché? Perché c'era un problema di fondo che era legato proprio all'accoglienza nella comunità cristiana di due gruppi diversi. C'erano gli ebrei che avevano aderito al cristianesimo e i pagani che avevano aderito al cristianesimo. Ora, gli ebrei che aderiscono al cristianesimo non è che dicono abbracciamo Cristo e tutto quello che abbiamo vissuto prima non serve più, no. Cristo, come dire, dà ulteriore vitalità a quella che è la loro tradizione religiosa, anche perché Cristo è ebreo. Però faceva parte della tradizione ebraica anche le norme di purità, le norme alimentari, per cui, ad esempio, andare a comprare al mercato una carne non era considerato un elemento impuro perché non si sapeva, puro perché non si sapeva da dove veniva quella carne, se quella carne era stata sacrificata a una divinità pagana, ad esempio, e poi veniva riportata sul mercato per venderla, perché avveniva così, come faceva uno a saperlo? Quindi un pagano che portava sulla mensa dei cristiani, dove c'erano anche dei giudei, la carne che aveva comprato al mercato, chi mi diceva che quella carne non era stata sacrificata a una divinità pagana? E allora c'era un po' il dibattito, un dibattito tra l'altro abbastanza acceso, nella comunità cristiana, di dire: io non mangio insieme ai pagani, perché non so, ai pagani convertiti, perché non so che tipo di carne mi mettono sulla tavola. E quindi si creavano una sorta di due anime che combattevano tra di loro, che erano gli estremisti cristiani provenienti dall'ebraismo, che dicevano non mangiamo carne, così siamo sicuri che non mangiamo niente di impuro, e gli altri che invece dicevano ma in Cristo queste norme di purità sono state superate, non è quello che mangiamo che incide su di noi, ma ciò che esce dal cuore, tra l'altro riprendendo una delle parole di Gesù. Quindi il dibattito sul che cosa mangiare o cosa non mangiare è un problema di convivenza tra due anime della comunità, tra la parte proveniente dal paganesimo e la parte proveniente dal giudaismo. Lei però citava anche un altro testo, le lettere pseudo-clementine. Le lettere pseudo-clementine sono un testo apocrifo che presenta tutta una serie di polemiche che vengono fatte contro Paolo, che viene presentato in questo scritto, è uno scritto eretico ovviamente, attribuito a Clemente I, ma falsamente attribuito a Clemente I, ecco perché vengono chiamate le lettere dello pseudo-Clemente, del falso Clemente. Quindi queste lettere, questo scritto apocrifo, è uno scritto che proviene da un ambito del giudaismo estremo, eretico nel senso che si consideravano giudeo-cristiani, ma erano giudeo-cristiani eretici, che ritenevano proprio per, erano vegetariani perché? Perché non volevano correre il rischio che si correva nell'accogliere l'apertura ai pagani e contestavano a Paolo proprio di aver aperto il cristianesimo al mondo pagano annacquando totalmente il messaggio di Gesù. Tanto vero che Paolo in queste lettere viene visto come un falso profeta, come una sorta di mago che entra in scena affabulando tutti, convertendo molta gente, ma introducendole nelle vie dell'errore, litigando addirittura con quello che invece è il custode della tradizione, che è Pietro. Tenete però presente che in questi scritti apocrifi anche Pietro viene un po' caricato. Abbiamo la caricatura di Pietro, non è l'apostolo vero e proprio, perché gli accenti sono talmente spinti all'estremo da mettere in opposizione due parti della comunità. Ecco, tutti questi scritti ci fanno capire come è vero quello che diceva Massimo prima, no? Chiamando da Napoli. È vero, i primi cristiani avevano la testimonianza degli apostoli, avevano la testimonianza di chi aveva vissuto con Gesù nella prima ora, però non è stato questo, ovviamente tutto questo è stato importante, ma non è stato sufficiente per risparmiare tutta la fatica della formazione dell'identità cristiana. E nella formazione dell'identità cristiana lo Spirito ha voluto che tutti fossero responsabili, non solo i 12, ma anche quelli che sono venuti dopo. E noi sappiamo quanta fatica il credo ha avuto bisogno per delinearsi, quanto sangue anche purtroppo è scorso per arrivare a quei punti fermi su cui poggia la nostra identità cristiana, il credo che ogni giorno, ogni domenica noi proclamiamo in chiesa, spesso lo dimentichiamo. Noi ripetiamo a memoria le formule, la formula del credo che abbiamo imparato a catechismo, che ripetiamo la domenica, ma dietro quella formula ci sono pagine di storia, c'è tanto sangue che è stato sparso, tanti dibattiti, tante fatiche, persone che sono state ricettate, poi riaccolte, non è stato tutto così semplice. Grazie quindi Sandro, perché fermandoti lungo la strada hai permesso anche noi di fare un passo in avanti nel commento di questa pagina. Pronto? Pronto? Sì, con chi parlo? Sono Ciro da Napoli. Come? Può ripetere il nome? Ciro da Napoli. Bene, mi dica. Buonasera padre, volevo chiederle, 2-3 anni fa Benedetto XVI scrisse che i sinottici si sbagliavano sulla data dell'ultima cena. Giovanni giustamente indicava l'ultima cena nella parasceve e non nella Pasqua. Ecco, volevo chiedere il suo parere in merito e se il 30 dopo Cristo è diciamo l'anno, quello più vicino insomma all'anno effettivo della crocifissione del Signore. Sì, allora grazie mille per la domanda. Effettivamente gli studiosi, chi è un pochino più addentro negli studi biblici, sa che la tradizione dei sinottici, cioè chi ha scritto il Vangelo di Marco, Matteo e Luca, descrivono gli eventi seguendo una cronologia che è diversa da quella dell'Evangelista Giovanni, cioè praticamente lo sfalsamento di una giornata. In altre parole, se la cena che Gesù con i discepoli vive nei sinottici corrisponde alla cena pasquale, nell'Evangelo di Giovanni tutto è spostato dopo, cioè Gesù muore sulla croce nel momento in cui vengono sacrificati gli agnelli al Tempio che servivano poi nella cena pasquale, la sera successiva. Quindi la sera del giorno in cui Gesù muore, nel Vangelo di Giovanni, si celebrava la Gada Pasquale, il Seder Pasquale, il momento in cui veniva fatta memoria, e non era stata celebrata il giorno prima, come invece dicono i sinottici. Oggi come oggi gli studi biblici ritengono che la narrazione di Giovanni, anche se l'Evangelista Giovanni ci consegna il suo Vangelo dopo quello di Marco, ad esempio, sia quella più vicina ai fatti. Cioè probabilmente le cose sono andate proprio come le descrive Giovanni. La certezza al 100% non ce l'abbiamo, però sembra che diversi elementi incrociati da altre informazioni che ci vengono dalla narrazione giovannea, anche da come lui struttura il ministero pubblico di Gesù, all'incrocio tra i calendari del tempo, alcuni dettagli che vengono evidenziati, portano a ipotizzare che il racconto giovanneo sia quello che sia più fedele alla realtà dei fatti, anche perché a volte, ad esempio, Luca si sbaglia in alcuni dettagli che racconta, si vede che non viveva sul posto, così pure in altri elementi si nota che Marco ha qualche esitazione, mentre Giovanni sembra essere più vicino ai fatti. Questo porta gli studiosi a ritenere Giovanni più vicino ai dati. Per quanto riguarda la data, pare che la data del 7 aprile dell'anno 30 sia la data da considerarsi come la data della morte di Gesù. Ora, se volete una lettura in merito, c'è proprio uno studio molto accessibile, molto divulgativo, che illustra tutte queste, la rilettura del Vangelo di Giovanni come Vangelo chiave per ricollocare il ministero e la morte e passione di Gesù. È un libro di Jean Petit Fils, si intitola proprio Gesù come titolo, edito proprio che ho fatto tradurre praticamente dalla mia casa editrice, perché permette di avere una visione aggiornata di quella che è gli studi sul Gesù storico. È uscito praticamente 3 mesi fa. A mio avviso, ecco, questo è un testo molto buono per tenersi un po' aggiornati sugli studi biblici che riguardano queste pagine. Quindi grazie anche al nostro ascoltatore di Napoli, e il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi mi permetto di ringraziare tutti quelli che sono intervenuti: Pino, Sandro, Massimo da Napoli, e poi le 3 donne che avevano aperto la serie delle telefonate: Rita dall'Emilia Romagna, Anna dall'Albenga, Valeria da Trieste. Un po' tutte le parti dell'Italia sono state rappresentate. Grazie di cuore a tutti voi ascoltatori, a voi che siete intervenuti, e rileggiamo ancora questa pagina che abbiamo commentato insieme per vedere come il Signore ha raggiunto veramente ciascuno di noi. Con questa immagine auguro a tutti voi la benedizione del cielo e giornate guidate dall'amore di Dio. Accompagniamo anche il nostro Papa Francesco nel suo viaggio a Rio, nel suo viaggio in Brasile, perché la passione che ha nel cuore veramente venga trasmessa ai tanti giovani che sono il futuro delle nostre comunità cristiane. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.